twist del direttore. Posso farlo? Certo. Uno, due. Mi piacciono le pupe traprendenti, odio i lavoratori dipendenti. Mi piacciono anche i balli scatenati, detesto soprattutto i sindacati. La gente mi guarda sempre con terrore, ma io sono il direttore dell'amore. Qui dentro c'è una banda di fannulloni, Paolo e Luca mi rompono i maroni.